Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il fermo è stato disposto per la rapina e per il duplice omicidio. Successivamente, a seguito di quello che sono stati gli accertamenti del medico legale, è stato accertato che l'assassino ha anche abusato della donna e quindi è stato contestato la violenza sessuale. In relazione a questa contestazione, il GIP ha emesso ordinanza di custodia cautelare. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è l'esito delle indagini sul duplice omicidio di Paragonia, no? Per il quale è accusato questo 18enne ivoriano che era ospite prima di essere arrestato nel CARA di Mineo. A parlare il procuratore di Caltagirone, che avete sentito ora in conferenza stampa, ha parlato di una crudeltà raccapricciante, ci sono stati vari passaggi di questa conferenza, di una disumana crudeltà, e ha anche detto che insomma è granitico l'impianto accusatorio nei suoi confronti, quindi sembra arrivati per le indagini a una fine. Dice anche il procuratore che sono sicuri di poterlo portare a sentenza di condanna, poi si vedrà, naturalmente ci sarà il processo, però sembra adesso ci sia l'attesa di capire se ci sono stati dei complici, probabilmente dei complici di nazionalità italiana, probabilmente del luogo, forse per una vendetta o per un qualche motivo, insomma avrebbero detto a questo giovane che lì dentro c'era un tesoretto di cui lui poteva approfittare, ed agito in questo modo, appunto, come dice il procuratore, con disumana crudeltà. Su questo argomento, sui tanti argomenti della settimana, se avete seguito Effetto Notte, ma anche se non avete seguito, insomma, poi in mente ce l'avete, ma sareste colpevoli di non aver seguito Effetto Notte, ricordatevi sempre dalle 21 alle 22, se volete avere un'idea chiara, un riassunto esauriente della giornata, con gli approfondimenti poi degli ospiti a partire dalla seconda parte, dalle 21 alle 22 tutte le sere, e con la possibilità di scrivere le vostre opinioni ovviamente sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso i messaggi al 349 238 6666. Sempre al centro, naturalmente, questa crisi umanitaria, l'emergenza immigrazione, che ha detto il Pentagono durerà almeno 20 anni, quindi immaginatevi di che dramma si tratta, di che fenomeno enorme, anche ovviamente ci troveremo qui più o meno tutte le sere a parlarne, sicuramente per molto tempo, non so se per 20 anni. In ogni caso, voi quindi prendete possesso delle vostre orecchie, di quello che ascoltate, scrivete i vostri messaggi, le vostre opinioni sull'emergenza immigrazione, su questo caso di cronaca terribile, poi ci collegheremo anche con Venezia, poi parleremo anche della Formula 1. 349 238 6666 per i messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, e visto che siete al posto giusto al momento giusto, vi riassumo sempre la giornata. Emergenza dei profughi. Secondo il Pentagono, la crisi migratoria durerà 20 anni. Centinaia di migranti al campo di Calais in sciopero della fame contro condizioni di vita e assenza di sicurezza. Il caos in Ungheria. I profughi marciano a piedi verso Vienna e Budapest. Approva oggi misure restrittive sull'immigrazione. Lavoro. Il Consiglio dei Ministri approva gli ultimi decreti per il Jobs Act e a Torino, dopo 5 anni, riapre Mirafiori. G20 finanziario. La capo economista dell'OCSE dichiara: in Italia sta tornando la fiducia. Alcune importanti riforme ora stanno dando i frutti. La coppia di coniugi uccisi a Paragonia, il 18enne ivoriano, dice il procuratore in conferenza stampa, ha agito con disumana crudeltà, contro di lui un impianto accusatorio granitico. Cinema, la mostra di Venezia, fan in delirio per Johnny Depp. Formula 1, Eccleston gela Monza, improbabile il rinnovo per il 2017. Iniziamo quindi dall'esodo umano che, secondo il Pentagono, appunto, come vi dicevo, durerà almeno 20 anni, e mentre l'Europa cerca un difficile accordo per gestire questa crisi, l'Ungheria ha approvato delle leggi molto restrittive contro i profughi, cosa che potrebbe spingere molti siriani in fuga a percorrere altre rotte. Se l'Ungheria rafforza le barriere, il flusso di migranti passa attraverso la Bulgaria. Se Budapest chiude le sue porte, chi scappa dalla guerra cerca un'altra strada, perché nessun muro, riflette Boris Cherkikov dell'Alto Commissariato per i Rifugiati in Bulgaria, potrà mai bloccare popoli interi. Neppure il muro che Sofia già da tempo fa correre lungo il confine con la Turchia. Potrebbe tornare ad essere questa, infatti, una delle rotte più battute, soprattutto dai siriani in fuga, secondo il capo della polizia di frontiera serba. D'altra parte, quasi 2 milioni di rifugiati sono già in Turchia e premono sulle porte dell'Europa, disposti a cambiare strade e a rischiare sempre di più. Per questo l'UNHCR chiede all'Unione di accogliere almeno almeno 200.000 richiedenti asilo, perché questo è un problema generazionale ed è una crisi che durerà per i prossimi 20 anni. La stima preoccupata è del Pentagono, che attraverso il suo più alto ufficiale, il generale Dempsey, spera anche che la foto del bimbo morto sulla sabbia greca, come gli scatti su Sarajevo nel 95, portino la comunità internazionale ad intervenire. Nel frattempo i migranti camminano aggirando tutti i muri. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Migration and refugee crisis for sure will be the heart of our work. Come spiega l'alto rappresentante per la politica estera UE, Federica Mogherini, ci sono, come ovvio, immigrazione ed emergenza rifugiati al centro dell'incontro informale dei ministri degli esteri UE che si svolge oggi e domani a Lussemburgo. Sul tavolo il documento con cui Italia, Francia e Germania chiedono, tra l'altro, un vero e proprio diritto d'asilo comune europeo che superi l'attuale sistema di Dublino, in virtù del quale spetta ai soli paesi di primo approdo l'onere di accogliere i profughi. Il ministro degli esteri Gentiloni: non sarà semplice, ma se non lo facciamo e lasciamo a ciascun paese o addirittura un paese contro l'altro la gestione dei problemi, io credo che rischiamo molto anche su Schengen e sulla libertà di circolazione. Allo studio anche la proposta di un sistema stabile di accoglienza per quote, dal quale i paesi più refrattari potranno astenersi, ma con tutta probabilità dietro il pagamento di sanzioni, nonché un rafforzamento di Frontex per i rimpatri di chi all'asilo non ha diritto e una lista europea dei paesi sicuri d'origine. Intanto la Germania si è detta pronta ad accogliere 800.000 richiedenti asilo nel 2015, 4 volte in più rispetto allo scorso anno, e anche il premier britannico Cameron ha confermato l'accoglienza di altri migranti. Resta invece compatto il fronte contrario alle quote, quello formato dai 4 paesi del centro-est europeo: Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E le immagini di questi migranti disperati stanno in fuga, stanno smuovendo, oltre all'immagine naturalmente di cui abbiamo parlato ieri del bimbo morto sulle spiagge della Turchia, stanno smuovendo non solo le coscienze della gente comune, ma anche di persone particolarmente abbienti. Un progetto ambizioso e forse un po' folle, quello del miliardario egiziano Naguib Sawiris, che si è offerto di acquistare un'isola italiano-greca su cui assicurare un futuro migliore alle migliaia di migranti in fuga. Sawiris non vuole costruire un lager in mezzo al mare, ma creare una vera e propria nazione nuova. La chiamerò Indipendenza, dice la stampa, e avrà tutte le infrastrutture necessarie per vivere decorosamente, scuole, ospedali e università. Il magnate egiziano rivela che il modello da cui trae spunto è il resort che le sue aziende hanno costruito dal nulla sul Mar Rosso. E invece di più rapida attuazione la proposta avanzata dal cantante attivista irlandese Sir Bob Geldof, che ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei rifugiati le sue case, così da ospitare 4 famiglie di migranti. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di occupazione, di lavoro per quanto riguarda l'Italia, perché oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act. La riforma del lavoro è conclusa. Con l'approvazione degli ultimi 4 decreti attuativi si chiude il cerchio sull'operatività del Jobs Act. Soddisfatto il ministro del lavoro Poletti, secondo il quale è stato portato a termine un processo di riforma in tempi estremamente rapidi. Chiarite poi le norme sui controlli a distanza che potranno avvenire sui dispositivi di lavoro in dotazione ai lavoratori senza autorizzazioni o accordi sindacali, ma nel rispetto della normativa della privacy, previa informativa del lavoratore. Né quella rete, né i cellulari, né i tablet possono essere utilizzati come strumenti sistematicamente destinati a monitorare il comportamento e l'attività dei lavoratori, perché la norma sulla privacy lo vieta, quindi non è che dobbiamo fare un'altra norma, c'è già la norma che lo vieta. Tra gli ultimi provvedimenti approvati, quello sul riordino degli ammortizzatori sociali. Abbiamo esteso ad 1.400.000 lavoratori che prima non avevano la copertura degli ammortizzatori sociali, cioè quelli che lavorano in imprese da 5 a 15 dipendenti, oggi hanno questa copertura. Addio poi alle dimissioni in bianco. Per contrastare questa pratica arriva un apposito modulo online. Istituito infine l'Ispettorato Unico Nazionale del Lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto parte la nuova Mirafiori. Da lunedì i lavoratori dello stabilimento della Fiat Chrysler di Torino, da 5 anni in cassa integrazione, cominciano a rientrare in fabbrica in vista dell'avvio della produzione del SUV Maserati Levante. Seguiranno poi dei corsi di formazione, verranno realizzati i prototipi e lunedì tocca i primi 300, ma già in settimana si arriverà a quota 1500. E siamo all'economia, partendo da quella americana, che ha creato in agosto 173.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso quindi al 5,1% per quanto riguarda l'economia americana. Intanto però Confindustria lancia l'allarme stagnazione. È allarme stagnazione secolare. Secondo l'ufficio studi di Confindustria, l'economia mondiale è a rischio per effetto dei cambiamenti demografici e per la forte contrazione degli investimenti. Le previsioni per il PIL globale sono del 3,2% nel 2015 e del 3,6% nel 2016, molto distanti dal 5,1% medio annuo pre-crisi e potrebbero anche rivelarsi ottimistiche. Occorre quindi un mix di politiche per rilanciare la crescita, procedendo con riforme strutturali e puntando sul manifatturiero. Il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, a Focus Economia. È uno scenario nel quale la crescita è più lenta. Questo significa minore dinamica delle esportazioni, non solo dell'Italia ma anche dell'Unione Europea. Questo significa che è importante varare politiche economiche che stimolino la domanda interna in Italia e in Unione Europea, soprattutto di investimenti. Intanto, per quanto riguarda l'Italia, l'Istat conferma nella nota mensile la stima allo 0,3% del PIL nel terzo trimestre e la crescita acquisita per il 2015 allo 0,7%. Il mercato del lavoro italiano appare poi in miglioramento. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo, al G20 finanziario di Ankara, la capo economista dell'OCSE, Katrin Mann, ha già detto l'Italia sta tornando verso la fiducia, tornando alla fiducia in Italia, alcune importanti riforme ora stanno dando i loro frutti. Siamo alla cronaca con i coniugi uccisi a Palagonia in Sicilia e anche accusato di violenza sessuale. Mahmoud Camara, 18 anni, originario della Costa d'Avorio, ospite del CARA di Mineo, fermato dalla polizia con l'accusa dell'omicidio di Vincenzo Solano, di 68 anni, e Mercedes Ibanez, 70 anni, uccisi nella loro villa in via Palermo a Palagonia nel Catanese. Secondo il procuratore di Caltagirone, che abbiamo sentito all'inizio, l'impianto accusatorio nei confronti del giovane ormai granitico. Il procuratore nella conferenza stampa ha anche sottolineato la disumana crudeltà con cui il Livoriano ha infierito sulle due persone uccise. Intanto prende corpo l'ipotesi di complici italiani. E dopo il duplice omicidio di Palagonia, gli scandali di Mafia Capitale che hanno coinvolto il centro per richiedenti asilo di Mineo a Catania, Matteo Salvini è andato oggi al campo di accoglienza che secondo il leader della Lega dovrebbe essere chiuso perché degli oltre 3.000 ospiti solo una parte sarebbero veri rifugiati. Oggi mi farò dare le nazionalità delle persone che sono ospiti qua dentro e voglio vedere quante sono le persone qua dentro ospiti che scappano veramente dalla guerra. La maggior presenza qua è di cittadini nigeriani. La Nigeria è una terra bellissima e potenzialmente ricchissima. Il problema non è svuotare la Nigeria, il problema è andare in Nigeria a chiedere di che soldi avete bisogno, di quale infrastruttura, di quale aziende, di quale scuole, di quale fabbrica. Verrà dopo 4 anni la gestione, ha coinvolto perfino cooperative di Mafia Capitale, quindi che debba essere chiuso. Ormai lo chiedono perfino al Quotidiano dei Vescovi, 5 Stelle, Forza Italia, Mancano Gesù Bambino e Marziani, e poi tutti chiedono di chiudere questa vergogna celofane. E ora l'incontro che c'è stato oggi tra il prefetto di Roma Gabrielli e il sindaco Marino, che dopo il faccia a faccia hanno assicurato tra Campidoglio e prefettura massima collaborazione. È stato un faccia a faccia durato oltre un'ora, quello fra Ignazio Marino e Franco Gabrielli. Al termine i due hanno assicurato che fra Campidoglio e prefettura si svolgeranno all'insegna della massima collaborazione sia la gestione del giubileo sia il percorso di risanamento dell'amministrazione capitolina voluto dal governo dopo la bufera di Mafia Capitale. Al prefetto ho illustrato il lavoro fatto nell'ultimo anno dalla giunta per dare un segno di discontinuità con il passato, ha spiegato Marino. In questo modo possiamo superare quella fotografia datata che è stata presentata il 27 di agosto e dimostrare come questa città ha cambiato rispetto a quello che era accaduto durante gli anni della giunta Alemanno. Parole che non sono piaciute al ministro dell'interno Alfano. Marino ha ragione, la mia è una foto del 2014, ma gli faccio presente che lui è stato eletto nel 2013, ha replicato piccato il responsabile del Viminale. Con Marino non ci sono contrapposizioni, ha spiegato invece dal canto suo Gabrielli per sgombrare il campo da polemiche e veleni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è il cinema anche oggi, naturalmente Venezia. È stato il giorno di Johnny Depp, è tornato al Lido per presentare un film fuori concorso, Black Mass, storia vera di un super gangster che sta scontando degli ergastoli per vari omicidi negli Stati Uniti. Poi ci collegheremo direttamente con Venezia anche per sapere se Johnny Depp è sopravvissuto a questo assalto dei fan. E per chiudere lo sport con la Formula 1, il mondiale fa tappa in Italia questo fine settimana, è l'occasione per parlare del rinnovo contrattuale del Gran Premio di Monza, sempre più a rischio, il numero numero uno del Circus Eccleston. Parla chiaro, dice: il rinnovo è improbabile, non vogliono pagare, cioè gli organizzatori di Monza. Più tardi cerchiamo di capire bene qual è, insomma, l'argomento del dibattere. Intanto, a proposito di dibattiti, leggo i vostri messaggi tra pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Claudio, a proposito dell'emergenza immigrazione, dice: l'Europa e l'America hanno contribuito a destabilizzare Africa e Medio Oriente, adesso è arrivato il conto da pagare. Un messaggio simile, ecco, anche questo di Andrea di Bologna: la responsabilità di questo esodo biblico è anche degli Stati Uniti per le guerre provocate in Medio Oriente, si prendano cura anche loro di una quota di migranti. E poi dice un altro ascoltatore, Mauro, ecco: non mi spaventano i 300.000 arrivati, ma i milioni che arriveranno, e se sono musulmani, il fatto che non esiste un Islam moderato, perché i ricchi paesi arabi non si offrono. Insomma, queste sono naturalmente idee personali, e giustamente dibattete tranquillamente, liberamente, se in modo civile, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666. Continuate, mentre adesso aggiorniamo chi viaggia e poi entriamo nel cuore degli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, vedo che Robert Pattinson ha dato forfè a Venezia, poi ho detto che ci collegheremo con Venezia e capiremo come è andata la giornata e come sta andando. Adesso entriamo appunto ancora nel cuore del tema dell'immigrazione, soprattutto con quello che sta succedendo a Budapest, tra Budapest, l'Austria e la Germania. Però, se avete acceso la radio in questo momento, lo sapete, vi ricordo quali sono i fatti principali. In Ungheria, fuga dai campi, esodo dei profughi a piedi da Budapest a Vienna, sono stati anche spruzzati degli spray urticanti da parte delle forze dell'ordine contro donne e bambini. Intanto è stato sepolto Aylan, il bambino simbolo di questa tragedia, a Kobane è stato sepolto. Cameron, intanto, il primo ministro britannico, apre ai migranti dopo i muri ideologici, diciamo, alzati finora, e intanto no di Praga e di Bratislava alle quote, intanto alle quote europee di immigrati. Il Pentagono dice la crisi durerà almeno 20 anni, intanto l'Ungheria inasprisce le leggi contro l'immigrazione. Borse a picco, non basta la disoccupazione ai minimi americana, pesa l'onda asiatica, Milano chiude a un meno 3,18%. E poi Jobs Act, approvati gli ultimi decreti, completata la riforma, Fiat nuova linfa per Mirafiori con la produzione del SUV Levante. E poi il mostro di Foligno, cioè mi ricordate Luigi Chiatti, ha scontato 30 anni di reclusione, lascia il carcere e farà adesso 3 anni invece di residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza nel Cagliaritano. E Venezia, fa in delirio per Johnny Depp, gangster in Backmass. Dicevamo che uno dei massimi vertici del Pentagono, il generale Martin Dempsey, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane, in un'intervista alla ABC ha detto che questa crisi umanitaria, l'esodo di migranti, rifugiati dalla Siria, dal Nord Africa verso l'Europa, è un'emergenza enorme e ce ne siamo accorti, una crisi reale, effettivamente lo è, che durerà almeno 20 anni. Diciamo, naturalmente non è confortante questa notizia. Intanto però la Gran Bretagna, come vi dicevo, già ieri ha deciso di aprire a migliaia di profughi siriani, ancora però Cameron non ha precisato il numero di questi profughi, continua a ripetere migliaia, e donerà altri 130 milioni per i rifugiati. E intanto Praga e Bratislava respingono l'idea di quote obbligatorie per i paesi europei, dicono non risolvono niente, non è chiaro come siano calcolate, questo per il momento può anche essere vero, poi bisognerà appunto capire in che modo saranno calcolate, dicono né cosa debbano fare le autorità locali per trattenere i profughi nel proprio paese. Ma l'epicentro della tragedia dei migranti che vogliono andare soprattutto in Austria e in Germania, ma che vengono bloccati da giorni dalle forze dell'ordine, è la capitale, ancora la capitale ungherese, Budapest. Europa 24 notte. E questo purtroppo è ancora un giorno consecutivo di altissima tensione a Budapest, alla stazione ferroviaria, tra le autorità ungheresi e le centinaia di migranti che da giorni lì appunto sono bloccati alla stazione, oppure nei campi che sono stati allestiti un po' in fretta e furia l'intorno, vicino alla capitale, alla frontiera con la Serbia. Insomma, una situazione che man mano evolve, ma bisogna vedere in che senso. C'è grande disperazione, grande drammaticità, l'avete sentita anche raccontare in questi giorni dalla nostra inviata Valentina Furlanetto Bartoli da Budapest, e sembra che le stesse forze dell'ordine, insomma, non riescano più a controllare la situazione, anche perché ci sono da una parte dei migranti che si sono incamminati a piedi, pensate, da Budapest verso Vienna sono 240 chilometri, altri che si sono rifiutati di scendere da un treno per essere portati poi in campi lì in Ungheria, scene strazianti. Ma ci colleghiamo ancora con la nostra Valentina Furlanetto. Ciao Valentina. Sì, ciao Roberta e buona serata a tutti gli ascoltatori. So che tra l'altro adesso ci racconterai man mano cosa sta succedendo e di questo esodo a piedi. Mi pare che addirittura la polizia stia accompagnando un gruppo a piedi. So che l'Ungheria ha dichiarato lo stato d'emergenza e vuole inasprire la legge sull'immigrazione. C'è un appello di Strasburgo affinché non lo faccia. Insomma, una situazione concitata comunque. Sì, la situazione è stata tesa tutta la giornata e d'altra parte arriviamo da giorni in cui queste persone, si parla di 2000 persone, sono state costrette a dormire per terra praticamente prima fuori dalla stazione perché era chiusa, lo ricorderete, poi è stata riaperta ma i treni non andavano verso l'ovest europeo, quindi sono rimasti come in prigione, imprigionati in Ungheria, e quindi stamattina questi profughi, per lo più siriani, quasi tutti siriani, ci sono anche degli afghani, ci sono anche dei palestinesi, però per lo più siriani, hanno fatto quasi un'assemblea spontanea, si sono organizzati, hanno discusso a lungo. C'era anche una donna che è abbastanza singolare in questi casi, perché di solito le donne non sono mai in prima linea nei paesi arabi, si chiama Carmen, questa donna siriana, che assieme ad altri ragazzi, giovani, padri di famiglia, hanno iniziato a parlare agli autoparlanti, a radunare la gente davanti al piazzale della stazione Keleti, che ormai siamo abituati a conoscere, e hanno radunato tutti i profughi o quelli che erano interessati e hanno chiesto loro di marciare da Budapest, di camminare a piedi da Budapest a Vienna, perché appunto i treni non sono loro concessi, quindi in un'ora circa hanno radunato le loro cose. Però ti dico, Roberta, era una cosa nell'aria, perché già ieri sera il nostro amico cardiologo siriano di Damasco, di cui parlavamo ieri sera, mi aveva detto: io non posso stare qui con i miei tre figli, li vedi, sono stremati, io prendo e vado a piedi. Quindi era una cosa che circolava probabilmente. Poi alle circa 12 è stata presa la decisione, alle 12.45 questa massa umana si è mossa dalla stazione Keleti. Sai, io, tra l'altro, Valentina, scusa se ti interrompo, tra l'altro io ho visto un'immagine di un ragazzo senza una gamba con la sua stampella che andava dall'impeto, dal gesto, una foto che andava anche veloce, quindi questa ostinata voglia di vivere, di trovare comunque un futuro migliore. Hai visto bene, c'era questo ragazzo, c'era un signore anziano in carrozzina, c'era una ragazza down accompagnata dalla mamma, c'erano tantissimi bambini, ci sono tantissimi bambini, alcuni in grave difficoltà, sono giorni che non mangiano bene, che non bevono, che dormono per terra. Devo dire, una situazione veramente, mi viene da dire, da guerra, no? Abbiamo visto queste cose nei campi profughi, quindi vederle al centro dell'Europa fa impressione. Loro hanno camminato attraverso tutta la città, questa fiumana di persone, hanno attraversato il ponte Elizabeth e poi sono entrati in una statale. Sono, come dicevi tu, 240 chilometri, no? Verso Vienna. Alcuni baldanzosi, giovani, energici, vanno verso la libertà. Mi hanno detto: tutto sommato il peggio è alle spalle, noi abbiamo camminato tantissimo. Siamo andati in barca, quindi non abbiamo paura di questo. E poi però c'erano anche le famiglie stremate, gli anziani. Era caldo oggi a Budapest, ha piovuto in mattinata, poi è scoppiato un sole terribile per loro, perché devono fare questa strada senza acqua, con qualche bottiglia, così che si devono portare dietro. Valentina, ti chiedo l'ultimissima cosa, poi ci salutiamo. Senti, queste persone che tu hai incontrato, detto, a parte vari afghani, palestinesi, ma soprattutto siriani, è vero, dicevamo, che è soprattutto la classe dirigente, il ceto medio della Siria che sta scappando, che tipo di persone sono sembrate? Assolutamente, ceto medio, tanti studenti, tanti professionisti, parlavano inglese abbastanza bene, anche perché queste persone, lo ricordiamo, hanno dovuto pagare per arrivare. Di solito le persone che non hanno soldi vanno ai confini, quindi in Libano nei campi profughi, in Giordania nei campi profughi. Roberta, se mi permetti di aggiungere una cosa, una cosa che mi ha impressionato molto è che non c'era la presenza, come invece c'è in Italia in questi casi, della Protezione Civile o della Croce Rossa o di qualsiasi altra agenzia o o istituzione chiedesse loro acqua, chiedesse loro qualcosa, perché c'erano appunto disabili, bambini. La polizia sorvegliava la situazione ma non faceva assolutamente nulla. Non si spiega perché appunto l'assenza. Quindi una situazione di abbandono, infatti continuavano a chiedere dov'è il mondo, dov'è l'Europa. E ce lo continuiamo a chiedere noi anche questa puntata e prossimamente, adesso continueremo anche su questo argomento. Grazie Valentina Furlanetto da Budapest. Ciao Valentina. Buona serata. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Quindi dicevamo che l'Ungheria ha dichiarato lo stato di emergenza sui migranti e il Parlamento ungherese, con i voti della maggioranza governativa e anche con gli estremisti di Jobbik, ha approvato un pacchetto di leggi molto restrittive che prevedono fra l'altro che ci siano l'istituzione di zone ai confine per bloccare gli arrivi, l'accelerazione della procedura di riconoscimento del diritto d'asilo e l'inasprimento dei criteri per rilasciare questo diritto d'asilo. E si apprende anche che l'Ungheria ha deciso, notizia di poco fa, di chiudere le sue frontiere con la Serbia dopo che circa 300 migranti, lo avete sentito, sono fuggiti da un campo rifugiati. Annunciarlo è stata la stessa polizia, che dice questo per prevenire incidenti nell'interesse della popolazione. Insomma, una situazione davvero di proporzioni enormi, di cui si è parlato anche al Forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como. Forum Ambrosetti, che è il tradizionale appuntamento annuale noto a livello internazionale, dove capi di Stato e di governo, massimi rappresentanti di istituzioni internazionali, ministri, premi Nobel, economisti, manager, imprenditori, eccetera, si riuniscono per confrontarsi sui grandi temi globali, economici e sulla società, insomma, nel suo complesso. Lì c'era anche, naturalmente, tra i premi Nobel il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Fabrizio? In rappresentanza del Sole 24 Ore c'ero anch'io. Buonasera Fabrizio. Buonasera, quindi anche lì, insomma, però, giustamente, visto che si parla di problemi globali, si è parlato anche di immigrazione. Allora, prima che tu ci dica un po' come è stata affrontata, sentiamo, c'era il ministro Gentiloni, ministro degli Esteri, un passaggio di quello che ha detto. Il Mediterraneo, se per Mediterraneo poi intendiamo quello che dovremmo intendere, cioè l'aggregato di diverse aree, dal Nord Africa al Medio Oriente, agli stessi Balcani, è certamente al centro di queste crisi, ma è per l'Italia una straordinaria opportunità di crescita economica ed è una realtà straordinaria di business. È la terza area di business più importante per il nostro paese, dopo l'Europa e gli Stati Uniti. E tra l'altro, fra i vari, è intervenuto anche l'economista Nuria Rubini, che ha detto che l'Europa deve assorbire immigrati come fanno gli Stati Uniti, perché sono in realtà una risorsa economica. L'Europa lo vive come un problema perché ha un elevato tasso di disoccupazione e in crisi economica. Beh, insomma, mi sembra una cosa abbastanza palese, Fabrizio. Sì, no, in effetti tutti un po' concordavano a Cernobbio sull'immigrazione come opportunità più che come problema. Insomma, qui siamo tutti davanti a un'emergenza umanitaria enorme e quindi le ragioni umanitarie dovrebbero essere sufficienti a cambiare atteggiamento in Europa verso questa emergenza che stiamo vivendo. Ma se le motivazioni umanitarie non fossero sufficienti, c'è una motivazione economica che a Cernobbio è emersa con chiarezza. Un continente che è in crisi demografica e continua a perdere popolazione è un continente che non può rilanciare la sua crescita in maniera sufficiente. Quindi gli immigrati sono un'opportunità, sono non è positivo per la crescita economica. Anche se da come si sta gestendo questo problema e da come lo si vive anche emotivamente riesce difficile, no, a convincere, diciamo, l'opinione pubblica in generale. C'è un problema di gestione, è stato evidenziato qui e io credo sia molto vero. Cioè, l'Europa dovrebbe imparare a gestire flussi migratori che sono gestibili. Sembrano assolutamente non gestibili perché non sono gestiti e quindi tutto emerge come problema, come emergenza, come allarme. L'Italia tutto sommato ha avuto, sta avendo una pressione migratoria forte, ma forse se la gestiva come l'ha gestita la Germania nei mesi passati, questa emergenza si sarebbe anche notata meno. Insomma, l'Europa sicuramente è impreparata alla sua politica, è impreparata, come dire, a sostenere davanti alle opinioni pubbliche l'accoglienza di questi immigrati. Però io credo appunto la soluzione sia quello di gestire queste emergenze non sia quello di esasperare anche l'opinione pubblica, alimentando le paure dell'opinione pubblica. Fabrizio Forché, sentiamo anche cosa ha detto Renzi ieri, proprio ieri, una sintesi insomma di quello che voleva dire a proposito dell'Europa e anche dell'azione che l'Italia ha avuto sino a questo punto. L'Europa si deve muovere, perché di leader europei che si sono commossi ne abbiamo avuti già troppi. Di leader europei che si sono mossi, qualcuno in meno. Tra l'altro Renzi sarà domani lì al Forum Ambrosetti e noi stiamo bloccando Fabrizio Forché, che potrebbe mangiare delle buone tartine in questo momento. Non so se cogli la battuta, Fabrizio. Sì, io devo raggiungere in effetti un ristorante. Ti ricordi che Renzi l'anno scorso non volle intervenire, ci furono delle polemiche lì al Forum, perché disse che no, io dai professionisti delle tartine preferisco essere in mezzo a quelli che si spaccano la schiena, invece domani ci sarà, quindi forse gli piacciono anche lui le tartine. A questo punto cosa bisogna pensare? Io manifestamente penso che ci sono le elezioni a Milano e quindi, come dire, Renzi in questo anno cercherà di essere più presente in generale negli appuntamenti in Nord Italia e magari gli appuntamenti che coinvolgono una certa borghesia imprenditoriale, degli affari, delle banche. Poi tutto sommato, come dire, si può essere rivoluzionari il primo anno da Presidente del Consiglio, ma poi al secondo, al terzo anno tendi comunque a dialogare di più con quei poteri contro i quali all'inizio forse faceva piacere distinguersi per avere il consenso dell'opinione pubblica. Comunque la realpolitik, insomma. Beh sì, un po' la realpolitik dopo il primo anno da rivoluzionario serve. L'attesa verso Renzi qui c'è, è un'attesa credo tutto sommato positiva. C'è probabilmente una preoccupazione per delle riforme che sono più spesso annunciate che attuate. Quindi credo che il dibattito domani ruoterà soprattutto intorno a questa, l'attuazione delle riforme. A proposito di riforme, Fabrizio Forché, poi ti lasciamo mangiare le tartine, ma sentito che l'Istat intanto dice il mercato del lavoro appare in miglioramento in Italia, le prospettive dell'occupazione nei prossimi mesi appaiono moderatamente favorevoli. Oggi sai che il Consiglio dei Ministri ha approvato gli ultimi 4 decreti attuativi del Jobs Act, cioè le ultime 4 norme per renderlo insomma sì, applicabile. Tra queste c'è quella molto discussa dei controlli a distanza, tu sai, no? Che ma secondo me su questo si sta facendo una polemica eccessiva. È positivo che il Job Act sia attuato completamente, è stata forse la riforma più importante del governo Renzi. Ora è importante che venga adeguatamente implementato, anche così come la delega fiscale, e su quello anche sono stati approvati degli altri decreti oggi. Per cui, come dire, la percezione che poi questo governo annuncia solo, secondo me, è sbagliata. Alcune cose si stanno facendo. Il problema è farle camminare, cioè dare davvero poi l'impressione agli imprenditori, alle famiglie italiane, che le cose si fanno, cambiano, diventano più facili, più efficienti, il sistema diventa tutto più competitivo. Insomma, questa percezione ancora oggettivamente non c'è. Fabrizio Forché, adesso ti auguriamo buon divertimento e soprattutto buon appetito. Allora. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao. Adesso invece ci prendiamo noi una pausa, non so se voi mangiate o non mangiate, in ogni caso continuate ad ascoltare Effetto Notte e a scrivere sulla pagina Facebook del programma e anche al 349-238-6666. Tra poco ci collegheremo con la giornalista del Giornale di Sicilia che sta seguendo il caso di Palagonia. Intanto Antonio scrive: a questo proposito può essere granitico l'impianto accusatorio nei confronti di Livoriano quanto vuole, stante le nostre leggi c'è il fondato rischio che gli si affibbi infermità mentale. Domenico dice: ne parleremo a fine processo, semmai se ne farà uno, il nostro sistema giudiziario saprebbe dimostrare di appartenere, sembrerebbe forse dimostrare di appartenere alla fantascienza. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, voi in ascolto, al posto giusto, al momento giusto, naturalmente qui a Effetto Notte tutte le sere dalle 21 alle 22 e con i vostri commenti sulla pagina anche del programma Effetto Notte su Facebook e al 349-238-6666. Per esempio Guglielmo da Taranto si chiede: ma davvero dov'è la Croce Rossa e le organizzazioni assistenziali mondiali? Perché prima parlavamo con la nostra inviata Valentina Furlanetto a Budapest, che notava fra le altre cose che in mezzo a questa tragedia di migranti bloccati, di chi sta fuggendo a piedi verso Vienna. Insomma, in ogni caso, al di là della pressione anche che può vivere, per carità, una nazione, però diceva, come mai non ci sono almeno la Croce Rossa e le organizzazioni a dare un minimo di sostentamento, di aiuto a queste persone che sono lì da giorni, che dormono per terra alla stazione, che bevono pochissimo, mangiano malissimo, eccetera. E poi invece Luciano da Imola, evidentemente d'accordo con quanto diceva prima Fabrizio Forché, ma soprattutto i vari esperti economisti intervenuti al Forum Ambrosetti a Cernobbio, dice: l'immigrazione non è un'emergenza ma un'occasione, un'opportunità. Sono un italiano della classe 1969 che conta 950.000 nascite quell'anno, evidentemente la classe 2014 è inferiore ai 500.000. Devo aggiungere altro, dice Luciano da Imola, possiamo evitare la catastrofe socio-economica solo investendo adesso nell'accoglienza e integrazione, non è buonismo ma puro buon senso, per non dire anche interesse economico, perché la generazione di mio figlio non potrà mai sostenere tutti gli anziani che ci saranno, me compreso. Queste le vostre diverse opinioni, continuate naturalmente a riflettere e a scrivere. Io vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali e poi ci soffermiamo sugli sviluppi del caso di Palagonia. L'emergenza dei profughi, secondo il Pentagono la crisi migratoria durerà almeno altri 20 anni, centinaia di migranti al campo di Calais in sciopero della fame contro le condizioni di vita e l'assenza di sicurezza. E poi il caos in Ungheria, i profughi marciano a piedi verso Vienna e Budapest approva leggi restrittive sull'immigrazione. Lavoro, il Consiglio dei Ministri approva gli ultimi decreti per il Jobs Act e a Torino dopo 5 anni riapre Mirafiori. G20 finanziario, la capo economista dell'OCSE dichiara: in Italia sta tornando la fiducia, alcune importanti riforme ora stanno dando i frutti. La coppia di coniugi uccisi a Palagonia, ne parleremo tra pochissimo. Cinema, alla mostra di Venezia, fan in delirio per Johnny Depp. E per la Formula 1 Eccleston gela Monza e dice: improbabile il rinnovo per il 2017. Torniamo quindi sulla vicenda terribile dei coniugi uccisi a Palagonia in Sicilia, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del procuratore di Caltagirone che ha detto, Giuseppe Verzera, che ha detto che il 18enne ivoriano Mamdou Camara, che era ospite al CARA di Mineo come rifugiato e che da alcuni giorni è in carcere per il duplice omicidio di Mercedes Ibanez e Vincenzo Solano, è anche accusato di violenza sessuale. Sentiamolo. Il fermo è stato disposto per la rapina e per il duplice omicidio. Successivamente, a seguito di quello che sono stati gli accertamenti del medico legale, è stato accertato che l'assassino ha anche abusato della donna e quindi è stato contestato la violenza sessuale. In relazione a questa contestazione il GIP ha emesso ordinanza di custodia cautelare. E poi ha detto una serie di altre cose, ha detto che è stato incastrato dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza, che probabilmente sono implicati dei complici, forse italiani, che la scena del crimine era capricciante, lo testimone, dice questo testimone, un'indole criminale spiccata, e dice l'impianto accusatorio è granitico e in breve tempo riusciremo a portarlo a una sentenza di condanna. Chiediamo conferma a Francesca Aieri Rinella della Giornale di Sicilia, che sta seguendo questo caso da giorni. Francesca, buonasera. Buonasera a voi. Quindi insomma, parla di un uomo ormai incastrato dagli indizi molto pesanti nei suoi confronti il procuratore oggi. Assolutamente sì, l'elemento nuovo è quello della violenza sessuale, indubbiamente, perché proprio dall'autopsia è stato riscontrato con certezza che l'ivoriano abbia abusato della donna. Quindi si teme veramente che la donna sia stata percossa violentemente, poi sia stata violentata e poi scaraventata giù dal balcone. Non solo, tra gli elementi di accusa c'è anche il pezzo di una collanina che l'ivoriano indossava e che poi aveva stato trovato nel borsone, e anche una polo blu con un riporto rosso che è stata trovata nella casa dei coniugi uccisi. Questi elementi sono sicuramente del cittadino ivoriano. Senti Francesca, e poi dicevo che il procuratore nella sua conferenza stampa ha insistito particolarmente sul fatto che ha agito con crudeltà disumana. Sì, non solo, il GIP nel provvedimento di fermo parla di una personalità dell'indagato tendente a efferare dei crimini. Questo secondo il GIP, che ha convalidato appunto il provvedimento di fermo, emerge dalla grande freddezza con cui dopo l'omicidio il giovane si sia allontanato con una sorta di distacco dai fatti abbastanza evidente e soprattutto, continua il Zip, dall'atteggiamento primordiale addirittura di aver indossato i vestiti e le scarpe di un uomo che aveva appena ucciso. Adesso mi pare che per chiudere definitivamente le indagini resti da capire appunto di questi complici, se ci sono, e pare che siano anche della zona, potrebbero essere italiani. Sì, il procuratore l'aveva accennato nei giorni scorsi, probabilmente qualcuno aveva insomma fatto, aveva prospettato al cittadino del Cara che in casa poteva trovare un tesoretto. In realtà poi Liboriano ha rubato solo qualche computer, una videocamera, eccetera. Per il GIP è impossibile che un giovane, insomma, da una corporatura media come quella di Camara abbia potuto gestire contemporaneamente, insomma, una barbarie inaudita nei confronti dei due coniugi, prima dell'uomo sicuramente e poi della donna. Quindi insomma, è caccia di complici, non si escludono a questo punto che ci siano veramente dei complici che potrebbero essere anche di nazionalità italiana. Insomma, pian piano il cerchio si sta chiudendo. Intanto grazie Francesca Ieri Rinella dal Giornale Sicilia. Grazie. Ciao Francesca. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Quindi avete sentito direttamente dalla cronista del Giornale di Sicilia che sta seguendo il caso di Palagonia come le indagini man mano si chiudono sempre più intorno a quelli che sono ritenuti i colpevoli. Adesso però alleggeriamoci un pochino, prima vi ricordo le notizie principali perché tutti dicono no, adesso io ho acceso la radio in questo momento, ricordatevi di accenderla puntualmente così io non mi devo ricordare continuamente le notizie, ma è un modo di fare un servizio utile a chi accende in modi diversi, magari sta lavorando, sta facendo qualcos'altro, in qualche attività, preso insomma, e quindi io ve li ricordo i titoli e poi tra poco ci colleghiamo con Venezia. Ecco qui i titoli delle principali notizie, naturalmente sempre con l'immigrazione, con la fuga dai campi profughi da Budapest a piedi verso Vienna, tantissime centinaia di migranti. Intanto le forze dell'ordine hanno spruzzato spray urticanti contro donne e bambini, è stato sepolto oggi a Koban Aylan il bambino morto sulla spiaggia turca. Cameron intanto, primo ministro britannico, apre ai migranti. E poi c'è invece il no di Praga e Bratislava che dicono non vogliamo le quote obbligatorie da parte dell'Unione Europea, e il Pentagono annuncia che questa crisi umanitaria durerà 20 anni. Borse a picco oggi, non basta che la disoccupazione americana sia ai minimi, pesa l'onda asiatica, tanto che Milano chiude con meno 3,18%. Oggi sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri gli ultimi 4 decreti attuativi del Jobs Act. E poi mostro di Foligno lascia il carcere dopo 30 anni di reclusione, andrà in un REMS che è una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza nel Cagliaritano. Pensiero, oddio, una roba drammatica. No, questi sono i fan di Johnny Depp oggi alla mostra cinematografica di Venezia. Qualcuno si è pure sentito male. Non so se in sottomentite spoglie ci fosse anche Cristina Batocletti, giornalista del Sole 24 Ore, che poi magari non confessa di essere stata tra i fan sfegatati. Cristina? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, allora, Cristina. Ero là a vegliare la situazione. A vegliare soltanto la situazione, sì. Però in conferenza stampa devo dire che mi sono avvicinata e gli ho fatto una foto perché mia figlia la richiedeva, quindi anch'io mi sono mescolata. Era la figlia, non tu che la richiedevi. Senti, ma io l'ho visto un po' appesantito però, è possibile? È verissimo. Poi aveva questo ciuffo, i capelli di nuovo neri, corvini, aveva questo ciuffo che si continuava a mettere a posto che... Sembrava quasi una reazione, uno scongiuro al fatto che lui effettivamente nel film è biondo e con una calvizie piuttosto estesa, quindi era stranetto, aveva questa giacca verde con camicia bianca, dei anelloni un po' tribali al dito, uno anche sull'unghia, molto su di giri, mattatore, tutta la folla per lui. Beh, abbiamo insomma sentito, accanto alla sua bellissima compagna, mi pare di aver intravisto, giusto? Moglie è diventata, sì, è diventata anche moglie. Quella non l'ho vista. Non l'ha vista, non l'ha vista, Cristina. Non mi interessava. Senti, invece hai avuto modo di vedere il suo film? Quello... Certo, l'abbiamo visto stamattina alle 8:30. Con un anticipo di mezz'ora perché era molto lungo. Black Mass si chiama. Esatto, tratto da un bestseller scritto da due giornalisti. Racconta una storia vera di questo delinquente di Boston, che è riuscito ad avere il controllo del racket di tutta una zona, sia delle scommesse, dei cavalli che della droga, grazie all'aiuto di un compagno, diciamo, dello stesso quartiere, che era diventato un pezzo grosso dell'FBI. Lo scambio era il seguente: lui faceva da informatore per estirpare una famiglia di italiani mafiosa, e nel frattempo loro lo lasciavano tranquillo e non lo incastravano mai per i suoi giri. Alla fine i giri si sono talmente espansi che hanno preso sia lui che questo funzionario dell'FBI, che nel frattempo aveva fatto grossa carriera. La storia è vera, il delinquente è tuttora in prigione a 86 anni. Il mix strano era che questo delinquente comunque aveva un fratello che era un senatore potentissimo del Massachusetts, quindi insomma era poi questa figura affascinante, che un rapporto quasi omoerotico con questa gente dell'FBI, reso molto bene. Perché comunque una ventina di omicidi, quindi insomma si sta facendo qualche ergastolo a Johnny Depp. Naturalmente sarà piaciuta questa parte così maledetta. Senti, invece, tra gli altri film, tu che vai lì anche a scegliere magari delle cose un po' meno, diciamo, in vista, c'è qualche film che ti è piaciuto meno in prima linea? Un film meraviglioso, che è quello che ha aperto Orizzonti, di Rodrigo Fla, che aveva già fatto un film che si chiamava La Zona, come dice lui, che racconta la storia di questo quartiere esclusivissimo chiuso in cui penetrano dei ragazzini. Questa volta invece è una donna che non riesce mai a parlare col medico e di suo marito, che ha un cancro. E quindi a un certo punto c'è un'escalation di violenza fino a che lei sequestra. È una specie di mix tra Un giorno d'ordinaria follia e Kafka, reso molto bene. Lui famoso, è un regista famoso in Messico per aver allevato tutta una nidiata di registi emergenti. Cristina Batocletti, ti ringraziamo, ti ringrazio assai, e buon divertimento e buona visione. A presto, ciao Cristina. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Politico e da un dibattito pubblico che generi applausi o che generi fischi poco cambia, resta comunque sul piano delle parole ad atti concreti che avranno conseguenze per la formazione dei nostri ragazzi. Ecco, io su questo mi sento profondamente orgogliosa di essere la persona che ha portato questo tipo di trasformazione all'interno della scuola. Lei credo che... Questa è la democrazia. E questi erano quelli che non erano i fan della ministra Giannini, che era la festa dell'unità di Milano, che è stata contestata. Siamo passati dai fan di Johnny Depp ai contestatori della ministra Giannini, sapete, con la riforma della scuola. Adesso invece pare che il GP di Monza, il Gran Premio, abbia un futuro piuttosto incerto, vero Dario Ricci? Sì, Roberta, in effetti, oltre alla gara, e quella sembra in qualche modo già nelle mani delle Mercedes, e speriamo che Sebastian Vettel riesca a scompaginare questo pronostico, quello che c'è veramente in ballo nel weekend del Gran Premio d'Italia è il futuro di Monza. Perché? Perché il prossimo anno, nel 2016, scade l'accordo tra l'organizzazione e di fatto quello che è il boss della Formula 1, Bernie Ecclestone, scusa, quanti decenni ha? Siamo oltre gli 80, ma è veramente il asillo, come si dice, a metterci, ci metto già la firma, quella forma, buon per lui chiaramente. Ma non in quella Formula 1 dove lui vuol tirare fuori il Gran Premio di Monza, è vero? Sì, di fatto Bernie e Arzillo è anche molto sveglio nelle trattative economiche, particolarmente attento al denaro. Sa bene che ha la possibilità di, essendo Monza uno dei gioielli del mondiale di Formula 1, di trattare dalla posizione più forte, cioè imporre delle condizioni, degli standard qualitativi, ma anche degli standard economici cui gli organizzatori devono adempiere. Cioè in pratica cosa c'è? Una differenza di milioni di euro tra quello che lui chiede agli organizzatori di pagare e quello che gli organizzatori di Monza vogliono pagare? Sì, di fatto ballano almeno una decina di milioni di euro, che non è facilissimo reperire a breve scadenza, e soprattutto non manca la concorrenza di paesi emergenti, di nuovi ricchi mondiali che sono pronti a subentrare a Monza, anche se poi Monza è la storia della Formula 1, uno dei circuiti per eccellenza. Beh, del mondiale di Formula 1 è sinonimo della Ferrari, però tutto a un prezzo, e figurati se Ecclestone non saprebbe monetizzare o non vuole monetizzare anche questo aspetto. Di fatto sicuramente stiamo assistendo a un gioco delle parti in cui in qualche modo entrerà anche il Premier Renzi, che sarà domenica proprio a Monza, e mi sento di dire che molto probabilmente sarà coinvolto nella vicenda, perché anche le istituzioni politiche chiaramente lo sono, perché Monza è indotto per tutta la provincia, per tutto il paese, però chiaramente trattare con Ecclestone non è mai facile. Siamo in un ambito di un gioco delle parti, però il cerino si sta consumando, e consideriamo anche che alcuni circuiti storici come ad esempio Hockenheim fuori dal mondiale alla fine al momento ci sono, quindi comunque insomma, per le trattative abbiamo ancora un annetto, grosso modo un annetto qualcosa, anche se ovviamente le cose si devono fare in anticipo, no? Sappiamo brava, che già si guarda brava, molto meglio, in là brava, ecco, quell'annetto corre veloce soprattutto quando Bernie si va a caccia di denaro fresco. Diventa l'interlocutore. Vedremo se nel frattempo con l'età si ammorbidisce, ma poco ci credo. Grazie Dario Nici intanto. Grazie a te Roberta. Ciao, Dario. Buonasera a tutti. A te. E noi ci risentiamo alle 22:00.